con Manuela del centro sociale occupato autogestito ex SNIA per parlare di ITAP, cibo di strada dal mondo dal 3 al 6 luglio 2019 all'ex SNIA per l'appunto. Manuela, ben trovata. Ben trovato Federico e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Quindi sono qui nella, come dire, difficile veste di sintetizzare 4 giorni di intense attività, offerta culturale, anzi offerta multiculturale, che poi appunto è il cuore di ITAP, Cibo, Territorio e Conflitto, che è una festa che organizziamo al centro sociale ex SNIA, appunto come dicevi tu, dal 3 al 6 luglio quest'anno e che è arrivato alla sua quinta edizione. È una manifestazione che racconta attraverso il cibo popolare, quello che si mangia in strada, le feste comunitarie, in famiglia, la cultura del paese di origine, le stagioni, dei raccolti, quindi comunque anche, come dire, un approccio assolutamente organico alla produzione per il cibo, per il consumo. La fatica del lavoro, le storie dell'emigrazione, dei conflitti, dei territori che ci portano a conoscere la loro sapienza culinaria. Non è un progetto gastronomico, è un progetto di relazione, perché il cibo in questo caso permette di abbattere barriere culturali laddove ci fossero, ma soprattutto di avere dalla nostra un sapere più vasto, che è quello molto differente da, adesso faccio un esempio un po' banale, molto lontano probabilmente dalle nostre sensibilità. Non parliamo di ricette attuali patinate, disumanizzate in quel finto retro, avulse dai contesti, dalla storia. Noi negli anni abbiamo ospitato narrazioni che si sono declinate attraverso la cucina e la lotta contro la TAP in Salento, la difesa degli ulivi secolari che con questo alibi quasi da peste biblica della xylella stanno per essere abbattuti a fronte di un progetto che altro ha a cuore che non la bonifica di un territorio. Le genti di Campania che lottano contro le discariche, i nostri amici, le nostre amiche palestinesi alle prese con ovviamente la difesa del cibo e della lingua come spazi sicuri, un po' come fosse una sinecdoche di casa, insomma, tutto questo non poteva che succedere alla SNIA, all'ex SNIA, perché? Perché quella è quella parte di Roma che noi abitiamo, Pigneto, Tor Pignattara, Maranella, che sono i più densamente popolati di diversità culturale, religiosa e geografica. Però non dimentichiamo anche che tutto ciò, quindi i TAP, si svolgerà anche e non soltanto intorno al cibo gustato, ma anche al cibo raccontato. E allora avremo una serie di ospiti di cui siamo decisamente orgogliosi e orgogliosi. Intanto un'arena che poi precederà gli appuntamenti musicali e su questo abbiamo fatto veramente dei grandi colpi. Avremo ospiti venerdì Angelo Pasquini e Sergio Rubini che ci ha fatto questo regalo enorme di venire a presentare di persona il Grande Spirito, una commedia che però attraverso la follia, la risata, racconta dei scempi dell'Ilva. Questo appuntamento comincerà dalle 19, come d'altronde tutti gli appuntamenti cinematografici. Avremo la prima romana di Amaranto, un meraviglioso documentario che ha vinto il Roma International Film Festival della scorsa edizione, delle autrici Emanuela Moroni e Manuela Cannone, che verrà presentato da un amico di ITAP di lungo corso che è Don Pasta. Poi ancora, per dire di invece musica, avremo uno strano esordio, cioè in realtà l'esordio di una, come dire, di in realtà una persona dal curriculum decisamente lungo, cioè il maestro Beppe Barra la prima volta all'interno di uno spazio sociale e questo accadrà esattamente di venerdì. Sabato poi abbiamo, come dire, un ospite che ci fa particolarmente orgogliosi perché viene da Tor Pignattara, è cresciuto a Tor Pignattara, ha frequentato la SNIA e adesso è il protagonista e autore della commedia dell'anno, quella che è stata premiata recentemente ai Nastri d'Argento, Bangla. E quindi, che dire Federico, non c'è una buona ragione per non venirci a trovare. Quindi ci sono 4 giorni per venire ai TAP e venire a conoscere tutto questo. Ecco, come saranno articolate queste 4 giornate a partire dagli orari? Guarda, per quanto riguarda l'attività di accoglienza e quindi la possibilità di girare per i nostri stati, degustare le specialità delle compagne e dei compagni che verranno appunto dal Sahara occidentale, Kurdistan, come ti dicevo, Palestina, Sri Lanka, e dalle 19 siamo pronti. Siamo pronti e poi ovviamente dalle 19:30 orari romani saremo ovviamente in grado anche di accogliere con l'offerta culturale da calendario, che appunto è quella costituita dall'arena cinematografica e poi dall'appuntamento musicale. In tutto questo avremo anche dei laboratori di conoscenza e di avvicinamento a cultura e tradizione, quindi un percorso di degustazione enologica a cura di Enoisa, che avrà luogo il venerdì e il sabato. Poi mi raccomando, l'evento Facebook chiarisce anche le modalità, non per iscriversi, ma quantomeno per farci sapere quante e quanti di voi vorranno partecipare. Poi per quanto concerne il sabato, diciamo avremo una summa, non sarà musica e non sarà solo danza, ma sarà uno spettacolo circense a chiudere le attività serali di circo internazionale. Ma in ogni caso dalle 19 ci trovate tutte e tutti lì. In chiusura ci lasci i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente sì, allora dovete cercarci sulla pagina di CSOA Exsnia su Facebook, che è sicuramente un mezzo più agile, e lì troverete in primo piano l'evento ITAP, Cibo, Territori e Conflitto. Allora ricordiamo la quinta edizione a Roma, al Centro Sociale Occupato Autogestito Exsnia, dal 3 al 6 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Manuela che ce lo ha presentato. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Allora, viva il lupo! Ciao Manuela. Federico, ciao a tutti.